strade e motori di Massimo De Donato. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Strade e Motori, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. La Francia dà il via ad un piano da 8 miliardi di euro per spingere l'automotive dopo la crisi da Covid-19. Il presidente francese Macron ha dichiarato che le misure annunciate dal governo serviranno a supportare l'intera filiera automobilistica del paese, perseguendo anche lo scopo di rendere la Francia il principale produttore di auto verdi in Europa. Per arrivare a questo risultato, il governo francese ha pianificato la realizzazione di oltre 1 milione di veicoli sostenibili entro i prossimi 5 anni. Aumentano poi gli incentivi. Un cittadino francese potrà ottenere fino a 7.000 euro di bonus per un'auto elettrica o ibrida. Intanto in Italia cresce il malcontento per le mancate misure per il settore. Anfia, Federauto e Unrai hanno deciso di rivolgersi al governo facendo fronte comune. Ascoltiamo la scheda. Se non si trova la cura giusta, l'automotive può morire di Covid. È questo il timore, alla luce dell'attuale crisi, di Anfia, Federauto e Unrai, che hanno deciso di unire le loro forze per chiedere al governo interventi più incisivi per il settore. I costruttori italiani ed esteri e il mondo delle concessionarie, insieme all'intera filiera, in un comunicato stampa congiunto, hanno affermato la propria delusione nei confronti del DL Rilancio, poco attento alle istanze del comparto. Il solo rifinanziamento del fondo per l'acquisto di auto a basse emissioni previsto dal DL, seppure nell'ottica di un giusto percorso di elettrificazione, non può bastare per un settore tanto importante per l'economia nazionale. Il contesto è cambiato e ora servono maggiori stimoli alla domanda. In assenza di interventi mirati, infatti, una chiusura del mercato auto 2020 con 600.000 unità in meno rispetto al 2019 determinerebbe non solo il crollo della filiera, ma anche un mancato gettito IVA di circa 2,5 miliardi di euro. È necessario quindi prendere subito provvedimenti. L'estensione degli incentivi per il rinnovo del parco mezzi e la revisione della fiscalità sulle vetture sono i primi necessari passi da compiere. Paura del contagio e scarsa propensione ai mezzi pubblici. È questo il quadro che emerge da un'indagine realizzata da Facile.it. Oltre 24 milioni di connazionali non faranno ferie, un dato triplicato rispetto al 2018, perché non possono permetterselo o perché sono condizionati dalle attuali limitazioni. Di questi, in quasi 7 milioni hanno dichiarato di rinunciare per paura di essere contagiati, un aspetto che peserà notevolmente sulla scelta del mezzo utilizzato. Il 78,3% di chi si sposterà infatti opterà per l'auto privata. Fase 2, nuova mobilità, vecchi problemi, e per dissipare la nebbia delle nuove procedure e dei nuovi modelli applicati in strade lontane dall'essere perfette anche prima del Covid-19, che iPark, l'Associazione Italiana degli Operatori della Sosta, propone la sua ricetta. I punti fondamentali sono 5: mantenimento dei sistemi elettronici di accesso ai centri di gestione della sosta, ampliamento dei poteri degli ausiliari del traffico, ottimizzazione dell'uso del bordo strada, rideterminazione delle tipologie delle strade per nuovi e diversi utilizzi e infine introduzione della digitalizzazione nella gestione integrata della sosta. Il 23 maggio del 1940 Maserati festeggiava una grandiosa vittoria, la quarta consecutiva alla Targa Florio, e nel 2020, proprio per celebrare l'ottantesimo anniversario di questa storica impresa, la Casa del Tridente è tornata in Sicilia con un prototipo della MC20, l'auto che segna l'inizio di una nuova era per la casa italiana, sia a livello di stile sia di tecnologia. Percorrendo alcune delle strade dove si è scritta la storia della competizione, Maserati ha portato avanti lo sviluppo della nuova supersportiva attraverso test in diverse condizioni di utilizzo, con l'obiettivo di raccogliere dati ed informazioni per la messa a punto finale. E cambiamo argomento, anche se in realtà il filo conduttore non può che essere ancora quello dell'emergenza Covid-19 e soprattutto dell'impatto sulla filiera dell'automotive. C'è un settore, quello del noleggio a breve ma anche a lungo termine, che sta soffrendo particolarmente in questo periodo, in questo momento, un settore che però è stato di recente citato dal Ministro per lo Sviluppo Economico Patuanelli proprio come esempio di un intervento necessario per questa filiera dell'automotive. E allora noi ne parliamo questa sera in compagnia del nostro ospite, che è Alberto Viano, amministratore delegato di LeasePlan Italia. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera, grazie a voi. LeasePlan, che ovviamente come tante altre società impegnate in questo segmento del noleggio si è interessata in prima persona a queste problematiche, ha avanzato delle proposte di cui parleremo tra poco, ma io partirei proprio dalla notizia di questi giorni, e cioè dall'intervento del ministro Patuanelli, che sembra vada nella direzione di un maggiore supporto a questo segmento. Beh, direi di sì, e fa anche molto ben sperare, perché è un intervento effettivamente molto competente e che denota di aver effettivamente compreso anche il ruolo del noleggio a lungo termine, che prima della crisi già in Italia immatricolava percentuali vicine al 20% del totale immatricolato e con valori unitari molto superiori, per cui ha sicuramente la capacità di favorire grandemente una transizione della mobilità a minore inquinamento e anche, se vogliamo, a impiegare quell'eccesso di capacità produttiva che a tutti gli effetti risulta oggi dal arresto quasi completo del mercato dell'automotive. Proprio qualche giorno fa, nel corso di un incontro, avete avanzato le vostre proposte per la crescita di questo settore, ovviamente con specifico riferimento a quello del noleggio. Quali sono queste proposte? Diciamo che la proposta non è in assoluto una cosa originale, è la riproposizione del superammortamento e dell'inclusione del superammortamento anche per il noleggio. Noi nella prima versione siamo stati inclusi, nel tempo siamo stati via via ridotti in termini di impatto, e il superammortamento per il noleggio a lungo termine è anche il modo che consente di far raggiungere a quel tipo di incentivo anche l'utenza privata, oltre a riversare già sull'utenza corporate e business, che probabilmente beneficerebbe comunque dell'incentivo fiscale, di canoni maggiormente competitivi. Per cui da un punto di vista finanziario costituisce un vantaggio indubbio anche per il business. Voi chiedete anche un potenziamento dell'infrastruttura elettrica, anche perché ormai questo sembra essere il futuro della mobilità, confermato anche dal post-Covid. E diciamo, se la prima è una misura più di natura tattica, questa seconda credo che sia di natura strategica. Noi vediamo che il governo ha giustamente in animo di incentivare le vetture elettriche, e il punto è che incentivare la singola vettura ha un'utilità molto marginale. La questione è di trasformare l'infrastruttura stradale italiana in un'infrastruttura adatta alle auto elettriche. Lei prenderebbe un'auto a combustione interna se non ci fosse una stazione di servizio tra Milano e Roma? No, e quindi un'auto elettrica oggi farà più fatica ad acquistarla. Oggi io credo che con i grandi investimenti e con la possibilità che questi aumentino in modo più significativo il PIL, per cui la capacità di creare sviluppo economico effettivo e permanente, un investimento di infrastrutturazione elettrica della rete stradale italiana per renderla pienamente utilizzabile anche delle auto elettriche sulle lunghe percorrenze, sarebbe un grande investimento che richiede una regia centrale, naturalmente, e che faciliterebbe in modo definitivo il passaggio all'auto elettrica. Un altro grande tema che sta caratterizzando in questo momento il dibattito sulla mobilità è quello della mobilità alternativa, quindi bici elettriche, monopattini elettrici, e in questo senso anche qui avete una proposta, addirittura quello di un noleggio congiunto, auto più monopattino. In che cosa consiste? Devo dire che questa è un'idea che il nostro sviluppo prodotti ha avuto già prima che non arrivasse questa crisi, perché comunque noi abbiamo la sede a Roma, siamo molto presenti a Milano e quindi conosciamo molto bene i centri urbani, e effettivamente ci sono aree dove portare le auto non è semplice, forse non è neanche vantaggioso per la cittadinanza in generale, quindi abbiamo cercato di rendere più semplice lo spostamento dal parcheggio della vettura al proprio ufficio, per cui fare il cosiddetto ultimo miglio su un mezzo di mobilità individuale, idealmente a zero impatto. e quindi avevamo iniziato a sviluppare progetti di monopattini che oggi, con l'incentivazione addizionale e la maggiore attenzione che le città, le grandi città stanno avendo per creare piste ciclabili e una migliore mobilità anche per questi strumenti, effettivamente si sposa molto bene. Salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite, Alberto Viano, amministratore delegato di LeasePlan Italia. Grazie per essere stato con noi. Termina qui questa prima parte di Strade e Motori. Ci risentiamo tra pochi minuti nello spazio dedicato ai costruttori. Parleremo di Jaguar Land Rover, in particolare con Daniele Maver, presidente EAD di Jaguar Land Rover Italia. A tra poco. Dall'emergenza Covid al sultano Erdogan, dalla guerra in Libia alla crisi siriana, dallo zar Putin ai ribelli di Hong Kong, immigrazione, politica internazionale, economia, conflitti. Ogni giorno ruotiamo il mappamondo e puntiamo il dito, con storie, analisi, con zoom e grandangolo. Voci dal campo, analisti internazionali e un pizzico di metallo. Sono Giampaolo Musumeci e vi aspetto dal lunedì al venerdì alle 16 con Nessun luogo è lontano, naturalmente qui su Radio 24. Strade e motori. Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, in questo spazio dedicato alle case costruttrici parliamo oggi di Jaguar Land Rover. Lo facciamo in compagnia di Daniele Maver, che è il presidente e l'AD di Jaguar Land Rover Italia. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera. Allora, sono giorni complessi e difficili per il mondo dell'auto. Nel decreto rilancio, come abbiamo ormai ribadito già da diverse settimane, non ci sono interventi specifici per il settore, ad eccezione di un rifinanziamento del bonus per l'acquisto delle auto elettriche. Nonostante questo, però, il ministro per lo sviluppo economico Patuanelli ha a più riprese sostenuto che in sede di conversione di questo decreto, di conversione in legge, potrebbe esserci spazio per qualche altro intervento. Noi ovviamente seguiremo con attenzione questa evoluzione, ma intanto, Maver, qual è dal vostro punto di vista, dal vostro osservatorio, la situazione a poche settimane dalla riapertura delle concessionarie? Ma diciamo, dall'inizio di maggio le concessionarie hanno riaperto. Durante i mesi del lockdown un po' le officine erano state autorizzate a restare aperte, ma insomma poi i clienti avevano difficoltà a spostarsi. Noi avevamo parecchie macchine in servizio alla polizia, ai vigili del fuoco, alla protezione civile, quindi abbiamo dato un'assistenza, ma l'attività è ripartita adesso dall'inizio di maggio e sta ripartendo lentamente, perché possiamo dire che siamo a un 30% di quello che può essere un business reputato normale. Sicuramente questo impatto ad oggi del mancata inclusione di un supporto al settore auto, che io spero, come lei ha detto, possa essere rettificato in un secondo momento, è stato un po' un effetto negativo, ovviamente. Questo perché, tutto sommato, l'auto ha un ruolo portante nell'economia, dove rappresenta un 11% del PIL e il 18% delle entrate tributarie, quindi un settore che pesa proprio come numeri sull'economia e sulla riscossione di imposte. Ma anche è un po' l'occasione per rinnovare il parco, no? Ci lamentiamo sempre della qualità dell'aria, del traffico, dell'inquinamento, eccetera. Sappiamo bene che le macchine nuove, sia ovviamente le macchine elettriche, le macchine ibride, ma anche le ultime versioni dei motori diesel e benzina, che non ci scordiamo oggi rappresentano ancora il 95% del mercato. Ecco, queste macchine nuove hanno un livello di inquinamento decisamente molto più basso, parliamo di 1 a 100 rispetto a una macchina di 10-15 anni fa. In Italia c'è un parco circolante di 37-38 milioni di macchine, poi dipende da uno come le conta, ma ci sta una porzione, quasi un terzo di queste macchine sono oltre 15 anni di età e più della metà sono oltre i 10 anni, quindi tutte queste vetture ovviamente hanno dei livelli di inquinamento più alti, non frenano, non sono sicure. Certo. Insomma, è ora che siano cambiate. Che si metta mano supporto al parco circolante. Tra l'altro, se non sbaglio, abbiamo uno dei parchi circolanti tra i più vecchi d'Europa, quindi è necessario questo intervento sostanzialmente. Sì, ripeto, è un intervento che sicuramente può dare una grossa mano a migliorare proprio la qualità dell'aria nelle città. Ci sono degli incentivi per le macchine elettriche ibride, ma come dicevo, insomma, rappresentano ancora una percentuale abbastanza bassa, bisogna intervenire un po' su tutto il parco circolante. E come è stato dimostrato in precedenti campagne di rottamazione, io ricordo quella del 96, mi pare che era il governo Prodi, che ebbe un effetto indiscusso sulla ripresa del PIL, proprio per diciamo i grossi volumi di denaro, insomma, che coinvolge questo settore. Certo, una mancanza che, come dicevamo, è stata riconosciuta dallo stesso governo con le dichiarazioni del ministro Patuanelli, che ha chiaramente detto che in fase di conversione in legge del decreto probabilmente ci potrebbe essere ancora uno spazio di manovra. Facciamo invece un passo indietro. Jaguar Land Rover, come molte altre case costruttrici, in realtà non si è mai fermata in questi mesi, perché ha continuato ad offrire assistenza, come ricordava lei, attraverso le officine ai propri clienti, ma anche a chi era impegnato in questa difficile fase di emergenza in Italia. Sì, noi abbiamo attivato una partnership con la Croce Rossa, una partnership che peraltro esiste da più di 10 anni in Italia e da più di 50 nel mondo. Quindi è un accordo che non è che è nato adesso. Questo accordo negli anni passati ha dato luogo a una serie di progetti per cui noi abbiamo sostenuto la Croce Rossa nella loro attività assistenziale, ad esempio ai senza tetto o durante gli eventi del terremoto del 2015. Ecco, in questa circostanza abbiamo fornito una flotta aggiuntiva di veicoli. Ovviamente Land Rover con capacità fuoristradistiche notevoli. Questi veicoli, in abbinamento con dei droni molto sofisticati della Croce Rossa, ha consentito loro di andare a prestare soccorso in zone altrimenti inaccessibili, no? Quindi la combinazione di questi due mezzi, dare informazioni, addirittura consegnare medicinali, insomma, poter intervenire come Croce Rossa veramente dappertutto. Certo. Questa è stata un'operazione che ci ha dato molta soddisfazione. Tra l'altro voglio ricordare che anche i nostri dipendenti hanno partecipato autotassandosi per diciamo finanziare questa operazione, quindi c'è stato proprio un coinvolgimento diretto generale anche dei dipendenti. Parliamo un po' di futuro. Il tema centrale continua ad essere quello dell'elettrificazione. Le interviste che ci hanno rilasciato anche i vari responsabili delle case costruttrici sembrano andare tutte in quella direzione. C'è però un dato che è emerso in queste settimane di lockdown e che abbiamo sottolineato anche di recente con il presidente di ISPRA, e cioè che in realtà gli inquinanti, almeno alcuni tipi di inquinanti, a partire dalla CO2, non sono diminuiti sensibilmente, è diminuito l'ossido di azoto, quindi a testimonianza ancora una volta che la mobilità veicolare non è responsabile davvero del danno ambientale, dell'inquinamento ambientale che soffriamo. Ma sì, io credo che l'automobile, alla fin fine, se parliamo di CO2, rappresenta un 11% delle emissioni a livello globale, no? Quindi parliamo di una cifra limitata. Ovviamente il settore auto ha fatto tanto, le dicevo della differenza tra una vettura, senza andare a prendere le vetture elettriche, ibride, per cui forse è scontato, ma anche prendendo un Euro 6 diesel, un Euro 6 benzina, la riduzione di inquinanti, di ossido d'azoto, di CO2 è veramente straordinaria rispetto a macchine di 10-15 anni fa. Quindi l'auto ha sempre fatto la sua parte. Ecco, non è detto che anche tutte le altre componenti del nostro sistema, dall'industria al riscaldamento ai voli low cost, no? Non è detto che anche tutte queste componenti abbiano dato il loro contributo, forse perché un po' meno visibili, no? Tutto sommato l'auto ce l'abbiamo come usciamo dal nostro palazzo, troviamo delle auto che passano, quindi vediamo subito se c'è qualcosa, no? Gli impianti di riscaldamento stanno chiusi dentro casa, non è che vanno in giro per le strade, quindi forse pochi, meno persone se ne occupano. E si rendono conto del danno che molto spesso questi impianti fanno, tra l'altro impianti di riscaldamento che sono sicuramente responsabili, questo ripeto, parole del presidente di ISPRA, quindi l'organismo pubblico di vigilanza e di controllo su questo tema, del danno da CO2. Maver, veniamo un po' anche al futuro del prodotto e quindi a quelle che saranno da qui alla fine dell'anno le presentazioni e le novità che saranno introdotte in Italia da Jaguar Land Rover, che come anche per quanto riguarda le altre case probabilmente hanno subito qualche lieve rallentamento. Sì, qualche rallentamento di qualche mese c'è, ma insomma voglio dire non credo che sia poi questo il problema. Per noi il 2020 è un anno importante, al di là di questo stravolgimento che abbiamo vissuto a causa del Covid-19. È un anno importante perché lanciamo due macchine, due vetture estremamente significative per noi. Da una parte la Jaguar F-Type. La Jaguar F-Type è una sportiva vera, molto performante, anche molto piacevole da guidare, come un po' tutte le Jaguar, con il livello di finitura interna Jaguar. È l'erede della E-Type, no? La macchina di Steve McQueen, di Marilyn Monroe, quindi è una macchina che rappresenta veramente il DNA del marchio Jaguar. Dall'altra parte, e questa l'abbiamo già lanciata a gennaio-febbraio, adesso è già nelle nostre concessionarie. Dall'altra parte stiamo lanciando, il lancio era proprio previsto in questo momento di lockdown, quindi è stato un po' ritardato, il nuovo Defender. Il nuovo Defender anche qui rappresenta veramente l'essenza, il DNA del marchio Land Rover. Il nuovo Defender, la versione precedente del Defender era nata nel 48 e ha durato fino al 2016, quindi quasi 70 anni, con un progetto sostanzialmente invariato, tutta una serie di aggiornamenti tecnici e tecnologici, ma il disegno originale è rimasto quello. Oggi, in questi giorni, nasce il suo erede, una pesante eredità da rispettare, certo. Ma sicuramente è un mezzo che ha tutte le caratteristiche della versione precedente in termini di capacità frodistradistiche, in termini di essenzialità, però aggiunge anche un comfort stradale nei lunghi viaggi autostradali che la versione precedente probabilmente non aveva. E noi ovviamente continueremo a seguire con attenzione il lancio del Defender e degli altri prodotti della casa. Termina qui anche questo spazio dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite, Daniele Maver, presidente AD di Jaguar Land Rover Italia. L'appuntamento con Strade e Motori torna come al solito sabato alle 22 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.